Giovedì 24 ottobre del 2013, 87.9, la modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa dal 1977, libera da padroni e pubblicità, la voce dei senza voce, la radio di chi se la sente. Potete contribuire a farla vivere come sottoscrivendo ad esempio sul numero di conto corrente postale 61804001 da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001 oppure Radio Onda Rossa, Via De Volsci 56 00185 Roma. Oppure basta andare sul sito internet della radio ondarossa.info, sulla homepage c'è l'opzione sostieni e lì c'è la modalità PayPal. Siamo all'appuntamento con il cinema Visionari ogni giovedì dalle 14 alle 15. Per saperne di più la scaletta la trovate sul sito della radio alla voce trasmissioni Visionari, con gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 24 ottobre, le nostre indicazioni e suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda le indicazioni per i film sul piccolo schermo e poi gli altri appuntamenti della settimana tra rassegne, proiezioni e festival, il link per riascoltare l'ultima puntata della scorsa settimana e le puntate, l'archivio del 2013 e del 2012. In collegamento ci siamo allora per quanto riguarda le giornate, il 13° incontri per quanto riguarda il cinema De Sé a Mantova, si è tenuto dall'8 al 10 ottobre. Siamo in collegamento con Mario Lorini, che è il presidente della FICE, per parlare un po' di un bilancio di questa tredicesima edizione. Come lo scorso anno, Mario, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio. Com'è andata, insomma? Allora, com'è andata? Bene, sì, diciamo che si è spenta da poco l'eco di questa manifestazione, che possiamo dire, insomma, al di là del periodo che tutti attraversiamo, noto, e che vede il cinema sempre in una situazione di grande difficoltà, diciamo un bilancio positivo, perché comunque si è riconfermata intanto un'idea giusta, che è quella che 5 anni fa ci portò a Mantova, in una città ricca d'arte, di cultura, di storia, anche molto sensibile, come dire, a tutte le manifestazioni culturali. In questi 5 anni, come dire, questa manifestazione è cresciuta perché è cresciuta anche la sensibilità e la voglia di resistere di un buon numero di esercenti. Noi sappiamo che il cinema di sé rappresenta all'incirca il 20%, no? Sia come strutture ma anche come dati di bilancio, e che è formato ancora da delle persone ricche di passione, di coraggio, che pur nella difficoltà decidono di resistere senza dimenticare le difficoltà esistenti, quindi con una fotografia precisa, ma che guardano al futuro. Sì. E quindi, come dire, c'è stato un incremento di partecipanti, quindi la voglia di vedersi, di incontrarsi. Ecco perché l'idea di queste città, di province storiche, dove la vita può proseguire intorno a delle sale costituite e costituenti un patrimonio del centro storico, vivere alcuni giorni a piedi, vedere molti film e scambiare opinioni, quindi anche momenti professionali, e poi riconoscere, come dire, ai protagonisti della stagione, dell'anno di cinema d'autore, il giusto riconoscimento con quei premi che, come sapete, noi diamo, ma perché in buona parte sono stabiliti dal pubblico o da noi esercenti, che ci trasformiamo anche in spettatori. Sì. Tra l'altro, come dicevi, rispetto a Mantova, ecco, si tratta anche di una valorizzazione di quei centri a misura d'uomo. E per, esatto, chi ci ascolta, è la FICE, la Federazione Italiana dei Cinema d'Essè. Mario, raccontaci un po'. Allora, entriamo nello specifico, quali sono gli elementi di valore che sono usciti fuori e quali invece le criticità? Allora, gli elementi, parliamo prima degli elementi di valore. Gli elementi di valore li abbiamo presentati durante un focus a cui hanno partecipato un po' tutti i principali rappresentanti della filiera e le istituzioni, quindi il Ministero, rappresenta il Direttore Generale. Gli elementi di valore sono che questo tipo di esercizio, appunto, che oggi conta circa 621 schermi, è ancora essenziale, sì, come dire, per la vita e per il successo della maggior parte dei film italiani ed europei classificati, come dire, a vario titolo, ma comunque sempre nell'ambito del cinema d'autore. Noi abbiamo visto che se per film come La Grande Bellezza o La Migliore Offerta, come dire, i due blockbuster d'autore dell'anno, le nostre sale rappresentano almeno il 35% del loro risultato, su tutti i film che vengono dopo, quindi Viva la Libertà, Romanzo di una Strage, Miele, Viaggio Sola, no? Questi penso siano alcuni dei titoli che i nostri ascoltatori e ascoltatori che seguono il cinema d'autore riconoscono, noi su questi film raggiungiamo dal 60 all'80% del loro risultato. Quindi la prima notizia è che senza questi cinema di vicinato, di centro storico, collocati anche in aree piccolo urbane, senza questo tipo di cinema questi film oggi non hanno praticamente più senso di esistere, un po' per la loro tipologia, un po' perché intercettano un pubblico che teoricamente avrebbe voluto mantenere questa geografia delle sale, no? Che sì, sappiamo alla fine degli anni 90 si è trasformata con l'avvento dei centri commerciali e con i multiplex, con i quali noi, ribadiamo, non abbiamo niente di, non abbiamo nessuna velleità contro, diciamo solo che sono due sistemi che fanno parte entrambi di un'industria culturale con aspetti molto diversi. Però il problema è che questo tipo di pubblico ha bisogno di una modalità che solo noi possiamo rappresentare. Allora questa è la prima grande la notizia di forza di questo settore, che però, come dire, no? Qui diciamo la prima criticità, poco si è visto aiutare un po' da tutti quanti gli elementi della filiera, sia da quella interna, quindi produzione, distribuzione, ma anche dalle istituzioni, perché, come dire, c'è stata sempre questa forte come dire, coerenza nel dire queste sale sono importanti perché sono presidi sociali, centri di aggregazione, luogo di incontro, quindi pezzi di città, però poi nella pratica, come spesso, quasi sempre succede in Italia, poco si è fatto. Quindi insieme a questo abbiamo anche detto immediatamente che noi, come dire, non crediamo che, se si guarda all'eliminazione di una stagionalità delle uscite del cinema e quindi alla mancanza di film sostanzialmente nell'estate, questo non debba riguardare anche noi. Cioè, la scorsa estate abbiamo visto che comunque alcuni blockbuster, film commerciali sono usciti, non entriamo nel merito del loro risultato, sì, forse i generi erano troppo simili, forse le uscite non erano coordinate bene, non c'entriamo dentro. Noi sappiamo però che dalla fine di maggio, momento in cui, diciamo, il film di Paolo Sorrentino stava terminando la sua corsa, che poi si è anche protratta, diciamo, noi ci siamo ritrovati, come spesso succede, senza, come dire, film anche più leggeri, anche, diciamo, film medi che potessero, come dire, allungare un po' questa finestra che dalla fine di maggio-giugno si protrae poi fino alla fine d'agosto. Perché? Perché pensiamo che comunque ci sia il modo di poter coltivare ancora il nostro pubblico a ridosso dell'estate, e invece non andando poi a ritornare sul problema della ripresa, se così si vuol dire, della stagione, che in genere coincide con l'apertura del Festival di Venezia, dove tra il 25 di agosto e poi l'inizio di Venezia, eccetera, sì, ci ritroviamo con questo affollamento di tanti piccoli e medi film d'autore che normalmente finiscono, come dire, dopo pochi giorni dentro i magazzini, perché, come dire, non c'è una spalmatura buona delle uscite, perché questi sono film piccoli e non vengono magari neanche ben reclamizzati. Il pubblico tenuto fermo per mesi non è che è lì che aspetta, come dire, a braccia aperte, e si può, come dire, può correre a vedersi 7-8 film nel giro di pochi giorni, c'è bisogno di tempo. Allora su questo abbiamo detto, se il paese Italia deve diventare un po' come gli altri paesi europei, dove si supera questa stagionalità, lo dobbiamo fare anche per il settore del sé, perché altrimenti rimaniamo con questa stagionalità di 9 mesi, e che comunque, voglio dire, se mancano 3 mesi al mercato è evidente che poi i nostri dati non saranno migliori. Qualcosa in questo si può fare. Sì, sì, sì, sì. Poi, non lo so, se vuoi continuo, interrompimi quando vuoi, perché io, sai, poi vengo preso anche certo, ce ne sarebbero di cose da dire. Dalla mia passione, certo, come dire, che spero si senta, perché è qualche cosa in cui vogliamo anche trasmettere, no, la nostra come dire, volontà di far credere a quello, sì, che diciamo, sì, sì, non, sì, non diciamo cose tanto per dire, no? Sì. Infatti in questo incontro è stato molto molto molto attivo, molto efficace, ci siamo portati come dire, Paolo Mereghetti, no? Che comunque è uno dei sì, critici cinematografici, talvolta non allineato con tutti sulle sue giuste o sbagliate opinioni sui film, ma che è un attento osservatore di quello che è il mercato. Tra l'altro gioca con noi a inizio e fine anno, noi facciamo un gioco con dei colleghi critici cinematografici, con le cinquine dei migliori film usciti nelle sale in quest'anno, quindi lo risentiremo insomma a fine anno. Ma ecco, se avete occasione diteglielo, perché io a Paolo riconosco che è uno dei pochi che comunque dall'esterno guarda il mercato, e infatti quest'anno che cosa ha detto? Non ha fatto solo recensione, ma ha detto: scusate, c'è un dato, la popolazione come età media si sta innalzando. Questo è anche un segno positivo, no? Segno che la nostra salute va migliorando, quindi aspettativa di vita, e persone tra l'altro che nell'età, nella terza, quella chiamata terza, sono attive e ancora hanno voglia di fare. Quindi dice: se l'età si sta innalzando, vuol dire perché non ci, e il pubblico sta diminuendo, perché se hai letto anche tutte le code che ci sono state di convegni, di incontro, non sì, ultimo il convegno di ieri l'altro a Roma, molto importante, c'è un problema di mercato forte, cioè negli ultimi 3 anni abbiamo perso oltre 20 milioni di biglietti, e già partendo da un numero di biglietti complessivi che è di 100 milioni, che è più basso, molto più basso della media dei paesi europei. Sì. Allora noi da questo discorso abbiamo detto: c'è questo innalzamento d'età, allora concentriamoci su la tipologia di schermo, di sala che più si avvicina a questo tipo di pubblico. Non è che non dobbiamo pensare a costruzione di nuove strutture multiplex, che già comunque, voglio dire, si sono posizionate in Italia, hanno creato anche degli scompensi micidiali, voglio dire, ci sono, però concentriamoci su queste, perché il nostro cinema italiano, il nostro cinema europeo di autore non potrà mai prescindere da questo. È proprio una questione, come dire, strutturale. Mm-hmm. Cioè una persona adulta, voglio dire, non ha questa mentalità, come dire, non si discosta da questa è la geografia del nostro paese, vi ripeto, ma noi siamo fatti di tanti medi e piccoli paesi, abbiamo alcune città metropolitane. Intanto anche le inchieste, le indagini fatte anche dall'ANICA recentemente ci dicono che i consumatori chiamati cinema molto e cinema medio statisticamente stanno in aree urbane che vanno da 10 a 100 mila abitanti. Mm-hmm. Quindi vuol dire, queste sono prove, come dire, non voglio dire non formidabili, ma sono prove piuttosto concrete. Quindi innalzamento dell'età, e quindi concentriamoci su questo tipo di sale. Sì. Rapporto tra festival e mercato, anche questo è un tema importantissimo, perché nel momento in cui noi riponiamo la speranza che il pubblico, i cittadini, come dire, rivolgono una maggiore attenzione al cinema e quindi al mercato, è chiaro che davanti al momento centrale della nostra attività festivaliera, quindi con Venezia, come dire, tutti si domandano cosa viene da Venezia, il mercato, i film, il glamour. Se poi a un certo punto ci sono dei cambiamenti forti, come dire, quasi epocali, come quelli che per carità a noi fanno piacere di vedersi affermare un genere storicamente importante, ma che è sempre stato lì, diciamo, borderline tra il mercato e no, come il documentario, no? E quindi mi riferisco alla vittoria del Leone d'Oro da parte del film documentario di Gianfranco Rosi. È chiaro che anche questo è un tema su cui va fatta riflessione, perché in Italia non c'è più, salvo pochi affezionati chiamati cinema med, cioè matti di cinema, non c'è più questa vicinanza a un certo tipo di genere, perché noi abbiamo fatto talmente tanti guai in questi ultimi 30 anni nel paese Italia, omologando il pubblico a dei linguaggi televisivi che a dir poco, come dire, mediocri. E quindi cosa può dire uno spettatore se vede vincere un festival di cui si aspetta qualità ma anche possibilità di vita sul mercato? Mm-hmm. Poi abbiamo visto che Sacro Graal ha avuto anche un percorso, grazie molto alle nostre sale, virtuoso, però, e non ne siamo contenti, però facciamo le proporzioni, stiamo parlando di risultati che non modificano un mercato asfittico. Sì, quindi anche lì l'importanza di dire: se dobbiamo ripartire con una rieducazione, una formazione del pubblico, l'educazione al cinema, all'audiovisione, alla scuola, avete voglia, noi lo stiamo dicendo da anni, ma nessuno si mette in testa che questa cosa è rimasta nelle idee. Però non possiamo aspettarci poi che non delusione. Un pubblico si aspetta un film che va sul mercato secondo canoni di qualità, ma anche, come dire, un po' più di leggerezza. Il genere documentario è bello, ma richiede un pubblico mediamente già preparato. Ecco, quindi su questi temi, come vedi, l'essenzialità della nostra sala, certo, la stagionalità, la difficoltà di spalmare bene il prodotto durante tutto l'anno, e quindi nessun periodo senza film e nessun periodo con troppi film, sono temi che hanno, come dire, fatto vedere quanto è la nostra voglia di reagire anche sugli elementi, certo, che non ci competono. Certo. Noi non siamo e non siamo mai stati, come dire, degli esercenti che aprono la sala cinesca e che mettono un film dentro. Certo. Noi mediamente siamo soggetti che intercettano il pubblico, vanno nelle scuole, invitano autori, promuovono rassegne cinematografiche. Oggi, nell'era moderna, stiamo lavorando molto sul cinema on demand, siamo molto, quindi chiediamo agli spettatori di costruire loro dei palinsesti di programmazione, di farli diventare dei PR di queste programmazioni. Noi siamo molto sensibili a tutte le forme di programmazione di contenuti altri, siamo sensibili al cinema restaurato, come potete vedere in alcune sale d'Italia in questi giorni. Sì, tra poco infatti sentiremo Gianluca Farinelli della Cineteca di Bologna. Piacere, ci siamo proprio incontrati a Mantova e in uno dei focus, come dire, collocati durante queste tre giorni, abbiamo proprio presentato i principali progetti speciali, tra cui appunto il cinema ritrovato al cinema. Apro e chiudo una parentesi: io ieri l'altro sera ho proiettato a Poggibonsi, che è una cittadina tra Siena e Firenze di 28.000 abitanti, quindi proprio in una città tipica, no, della piccola provincia, ho proiettato il primo dei film che a me hanno messo in programmazione di questa serie, che era The Hall for Murder, quindi Delitto Perfetto in 3D. Allora io ho realizzato 250 ingressi. Allora, una roba eccezionale, pubblico normale, però anche pubblico scolastico, che però non veniva come in un matinè, ma attraverso un progetto molto particolare, cioè insegnanti ed esercenti hanno convinto alcuni studenti a portare i genitori a vedere dei film insieme. Allora, io che ero a Roma e mi sono collegato con Skype e mi sono fatto mandare delle foto su Facebook, il professore mi diceva: Mario, dice, peccato che non sei qui, dice, sembra di essere in un sogno, un silenzio quasi spettrale e la sala è quasi piena. Cioè, capisci, queste cose ci dimostrano che si può fare tanto ancora. Però, vedi, questa è formazione, certo, questo è riprendere su cose che qualcuno potrebbe dire: ma come, io ho tante possibilità, televisione, internet, pirateria, Sky, e io invece riesco a far uscire di casa un martedì, come dire, nuvoloso, con un po' di pioggia, tipico autunnale, e io faccio uscire di casa persone che si incontrano, ed ecco l'importanza, perché battiamo molto su questo ruolo centrale della sala. La sala oggi è l'unico luogo dove le persone si possono incontrare ed uscire dalla loro stanza, dal loro studio, e, come dire, col loro schermo davanti. Senti Mario, in chiusura diamo dei riferimenti per quanto riguarda la vostra attività su internet, dove vi si può trovare? Noi stiamo realizzando, come oramai è obbligatorio, anche se per un'associazione nazionale i social network, come dire, devono essere più posizionati nello specifico. Comunque noi abbiamo un sito che è www.fisce.it e lì trovate comunque le recensioni dei film che escono la settimana, trovate il rendiconto anche delle nostre giornate professionali, le proposte e suggerimenti. È chiaramente un sito, come dire, un po' più professionale, però anche lo spettatore comune può comunicare con noi attraverso una newsletter che stiamo, come dire, lanciando anche sul pubblico dei non associati. Vi ricordo, ti rubo solo un attimo per dire che comunque nelle sale italiane e anche, come dire, su abbonamento, con veramente una cifra quasi simbolica, noi siamo una delle poche realtà che ancora su carta vuole testimoniare con una propria rivista bimestrale, che è distribuita in tutte le sale, dove si trovano sia resoconti delle nostre attività, dei festival, ma anche delle recensioni sui film. E questa è distribuita gratuitamente nelle 600 sale associate sparse per tutta Italia. Bene, Mario, io ti abbraccio, a risentirci presto. Bene, grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. Mario Lorini, presidente della FICE, Federazione Italiana Cinema d'Essè, per un bilancio della 13ª edizione degli incontri del Cinema d'Essè a Mantova dall'8 al 10 ottobre. Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, per l'uscita del film Il Gattopardo in sala dal lunedì 28 ottobre. Gianluca, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Eccoci, ciao. Allora, una grossa uscita questa. Beh, è un film straordinario che ha fatto la storia del cinema italiano e mondiale. E devo dire, tra l'altro, in questi giorni stiamo ricevendo telefonate, mail, ed è raro che un film rappresenti per ognuno tante storie, diciamo, per tutti coloro che l'hanno visto. Ognuno possiede un proprio Gattopardo e una propria storia, perché è veramente un film che attraversa la storia del paese e quindi anche la nostra storia. Ecco, per chi ci ascolta, soprattutto per i più giovani, come lo racconteresti in breve? Beh, in breve non è facile, non c'è nulla di breve sul Gattopardo. Si può affrontare da tanti punti di vista. È il film che cambia il modo di immaginare un film storico. Ecco, intanto si può cominciare da qui. Ecco, c'è il film che, diciamo, non sul presente, ma la rappresentazione della storia attraverso il cinema è cambiata nel 1963, quando Il Gattopardo è uscito. Non si era mai visto un film che aveva una tale perfezione, in cui anche quello che gli attori tenevano nelle tasche, che quindi nessuno spettatore avrebbe visto, era ricostruito in maniera perfetta. Questo è una prima cosa. Poi oggi in qualche modo sia il romanzo sia il film sono dei classici, ma in realtà non lo erano in origine. Il romanzo è stato rifiutato dai maggiori editor di quegli anni e solo il genio di Feltrinelli ha fatto sì che diventasse un romanzo di grande successo. Bassani fu quello che realmente scoprì il manoscritto, che era stato rifiutato, con l'autore che purtroppo era già morto da qualche tempo. E poi il film era in qualche modo un film impossibile, perché è un romanzo torrenziale. E l'altro aspetto, secondo me, che si può anche ricordare è che il film e il romanzo sono abbastanza diversi tra loro, hanno delle cose assolutamente comuni, hanno una radice e uno sguardo comune perché l'autore del romanzo e l'autore del film, in fondo, pur appartenendo a regioni geografiche molto lontane, avevano una comune formazione, e quel mondo aristocratico ottocentesco lo avevano conosciuto e amato profondamente. E ecco, nello stesso tempo il punto di vista di Visconti non è esattamente quello di Tomasi Lampedusa, e quindi, per esempio, la famosa frase che tutto cambi perché nulla cambi, nel romanzo significa che poi quella classe, quell'aristocrazia è incapace di confrontarsi con la storia e quindi morirà, mentre invece nell'interpretazione di Visconti, che è una delle chiavi geniali del film, in realtà il giovane Tancredi, interpretato da Alain Delon, ha quella capacità di trasformismo che poi sarà una delle grandi malattie del paese. Quindi in qualche modo Visconti ci fa immaginare che quella stessa classe poi sarebbe diventata fascista e poi democristiana e poi e poi e poi e poi, ecco. Esatto. Quindi è un come dire, forse il film che meglio rappresenta la recherche la ricerca del tempo perduto di Proust, perché Visconti ricostruisce come nessuno è mai riuscito a fare l'Ottocento italiano, ma nello stesso tempo è una lettura straordinariamente moderna della storia del nostro paese e in fondo dei problemi che sono ancora così evidenti e così attuali nell'Italia di oggi. Gianluca, che tipo di intervento è stato quello della Cineteca di Bologna? Dunque, intanto noi dobbiamo ringraziare la Titanus, che è questa l'unica casa di produzione italiana che esiste da più di 100 anni, che ha attraversato tutta la storia del cinema con 3 generazioni di produttori, prima Gustavo, poi Goffredo Lombardo che l'ha prodotto e oggi Guido, che ci ha consentito di lavorare su questo film straordinario e di dargli, come dire, una nuova vita. Il restauro che abbiamo fatto lo abbiamo fatto grazie alla fondazione di Martin Scorsese e ad alcuni sponsor, tra cui Gucci, che ha consentito appunto di restaurare, utilizzando le tecnologie digitali, questo film straordinario anche sotto profilo tecnologico. E tra l'altro il film ha la direzione della fotografia di uno dei maestri della fotografia mondiale, che è Peppino Rotunno, e quindi è la versione restaurata. E in più, alla fine del film mostreremo queste scene che Visconti aveva espunto dal montaggio definitivo, di cui sono ritrovate soltanto delle coppie francesi, quindi con gli attori che parlano in francese. Sono scene molto belle e però credo che molto molto giustamente Visconti le abbia poi tolte dalla versione definitiva, quindi non sono state reinserite, semplicemente restano come una documentazione che è molto interessante, che si potrà vedere alla fine del film. Bene, dal 28, da lunedì prossimo, nelle sale, in 70 sale in Italia, 2 a Roma, Il Gattopardo di Visconti. Gianluca, io ti ringrazio e a risentirci per le prossime novità. Io voglio, scusa, un'ultima cosa vorrei aggiungere ringraziandoti. Io credo che se io non avessi visto Il Gattopardo proiettato al cinema nella mia vita, oltre a non aver avuto uno dei grandi shock estetici della mia vita, questo film non l'avrei mai capito, ecco, perché ci sono dei film che non ha senso vedere in un altro formato che o almeno una volta bisogna vederli nella loro sul grande schermo situazione per la quale sono stati concepiti, cioè un grande schermo e un pubblico che assieme nel buio guarda quest'opera. Quindi credo che questa sia veramente una bella occasione per ritrovarlo o vederlo per la prima volta. Anzi, sono molto geloso di chi lo vedrà per la prima volta. Allora Gianluca, un abbraccio e a presto. Grazie a voi, ciao. Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna. È con noi nuovamente Gaetano Di Vaio, ci sei? Sì, ci sono. Oh, ben ritrovato Gaetano. Allora, quest'oggi in veste di coautore del libro Non mi avrete mai, e con te ci eravamo sentiti in altre occasioni per alcuni tuoi documentari, e tu sei regista e produttore. Questo libro cosa racconta, Gaetano? Visto che comunque ho visto che ci sono state già un paio di presentazioni, e non so, sicuramente anche altre, però qui a Roma ce n'è stata una anche pochi giorni fa. Di cosa si tratta, Gaetano? Ma intanto è un libro, un romanzo autobiografico, sì, dove racconta una storia, il mio passato, gli anni di devianza, la strada, il carcere, la tossicodipendenza, Scampia. È un percorso, come dire, per la prima volta, mi permetto di dire la prima volta, un percorso è un racconto, un punto di vista interno nella letteratura, nel senso che in genere chi non è andato a scuola è difficile che scrive libri, no? Sì. Sono uno che c'ha la quinta elementare, quindi anche la terza media inferiore sarebbe stato per me impossibile, però grazie all'aiuto di Guido Lombardi assieme siamo riusciti a fare sto libro, dove Guido è stato capace dal mio punto di vista di rispettare, di far passare soprattutto me, la mia voce il mio sguardo, il mio punto di vista, il mio animo, diciamo, su una città come Napoli, su un quartiere come Scampia, sulla mia storia. Cosa rara questo, perché tu sai che in genere sono sempre gli altri, soprattutto quando racconti un proletariato, un sottoproletariato, napoletano, italiano, siciliano, in genere è sempre l'occhio, anche a volte, come dire, illuminato, il borghese che lo racconta, sì. O meglio, di chi ha strumenti. Difficilmente chi non ha strumenti si racconta, forse questo non accadeva, credo, dagli anni di Pasolini probabilmente, sì. Qui in questo caso finalmente è una persona che si racconta in prima persona, racconta questa storia, cerca anche di far capire cosa c'è oltre Gomorra, no? Perché noi conosciamo solo Gomorra, ma non conosciamo l'umanità che c'è dietro il mondo Gomorra, non nella camorra, attenzione, ma la gente, i quartieri. Scampia etichettata solo come camorra, appunto, invece no, Scampia è un quartiere che ha 60.000 abitanti, la gente non può pensare che ci sono 60.000 delinquenti, no? Sì, sì, sì. Sono sì, invece sì. Quei pochi delinquenti che purtroppo fanno rumore, e i media si interessano di loro e passa il messaggio che questi territori sono solo ed esclusivamente criminalità, certo, ma non è assolutamente certo, così, certo. Sono territori difficili dove c'è mancanza di lavoro, dove non ci sono strutture sicuramente, ma c'è anche gente molto dignitosa, anzi, che nonostante tutto questo riescono invece a sopravvivere, come dire, almeno in maniera onesta, almeno. Senti Gaetano, hai parlato, ecco, di un tuo passato di devianza, così l'hai definito. Volevo chiederti, il cinema e l'arte più in generale, che ruolo hanno rivestito nella tua vita? Guarda, nel caso mio ovviamente è un ruolo fondamentale, però bisogna stare attenti a quando si dice il cinema salva, perché poi io da produttore mi sono pure trovato costretto a volte a salvare un pezzettino di cinema, no? Proprio sì. Per il tipo di cinema che viene fatto, allora tu, se racconti delle storie più di contenuti, finisci con l'essere più tu a preoccuparti di salvare, diciamo, il cinema o un pezzo di cinema, che il cinema a te. Inizialmente comunque ha avuto un ruolo fondamentale, perché? Perché è una forma di espressione, puoi raccontare, puoi esprimerti, puoi far sapere la tua storia, puoi portare te stesso in quel mondo, e quindi nel momento in cui ti appassiona e ti cattura, ovviamente poi, come dire, per me è stata anche presa di coscienza l'arte in generale, non solo il cinema. Sì, sì, quindi sì. Anche la letteratura, anche il teatro. Certo. Senti, volevo chiederti come mai questo titolo, che richiama un po' alla mente un libro negli anni 70 legato sempre alla tossicodipendenza, proprio con titolo molto simile. Qual era, aspetta, quest'altro titolo? Non te lo ricordi? Non mi ricordo, mi sembra proprio. Non contate su di noi. Non contate su di noi. Non contate su di noi, non mi avrete mai. Ma il titolo Non mi avrete mai, intanto, è nato perché ogni volta che mimavo alcune scene a Guido Lombardi, mentre scrivevamo il romanzo, che voglio ricordare che è pubblicato da Einaudi, Stile Libero, e mentre raccontavo le scene, le mimavo. Poi sai, quando mi piaceva come gliel'avevo raccontato, poi facevo sta battuta alla fine, proprio mentre scrivevamo, Non mi avrete mai, e questo la scriveva, al che Non mi avrete mai, tutto sommato, rispecchia un po' il mio percorso, nel senso che nonostante ho fatto una vita di strada, di criminalità, che tra l'altro ho pagato amaramente, perché ho fatto molti anni di prigione, però perlomeno non sono finito nella camorra, sono riuscito a non entrare nella camorra, sono riuscito anche nel momento in cui ho cominciato una nuova vita e a crescere da un punto di vista proprio culturale, a non farmi assorbire, sai, che ne so io, dal potere politico, per esempio, no? Sì. Quello meno sano, perché io sono uno molto favorevole alle istituzioni, purché siano istituzioni sane, istituzioni che permettono alla gente di lavorare, di fare le cose, di cambiare le cose. Le istituzioni invece, quelle lì di massa, quelle lì che servono solo a fare gli interessi di certe persone, quelle non mi interessano, e quelle istituzioni lì non mi avranno mai. Questo è il senso del titolo Non mi avrete mai. E niente, come dire, ci piace, abbiamo scelto quello. Certo, qua, certo. Diciamo. Senti Gaetano, che percorso avrà adesso il libro dopo queste prime presentazioni? Guarda, il libro è uscito il 9 luglio ed è già in ristampa. Ah. Le prime 10.000 copie sono andate via e quindi è stato già ristampato. Sta andando molto bene. La tua domanda è che vita avrà? Semplicemente cercherò di promuoverlo il più possibile, ma indipendentemente proprio dagli interessi materiali che un prodotto del genere può dare, secondo me proprio per i contenuti, perché è giusto per chi vuole conoscere, altro, è giusto che leggano sto libro, perché a parte che è scritto benissimo, tra le altre cose, anche in forma proprio di linguaggio, di stile, e poi quando unisci stile, linguaggio e contenuti, i contenuti ce li avevo tutti io da raccontare, diventa un vulcano, diciamo, è un libro vulcanico, ecco, ma dove però nonostante tu racconti anche storie a volte dure, in realtà prevale la vitalità del personaggio, sì, la voglia sì, di sì, vita sì. del personaggio. Sì. Non è un libro angosciante, per esempio, nonostante, ti ripeto, fai un viaggio in un mondo crudo, spesso ironico, addirittura ci siamo pigliati il lusso io e Guido di essere ironici in alcuni momenti, ad esempio quando Salvatore Capone, che è poi il personaggio che rappresenterebbe me, si va a costituire al carcere dopo mesi di latitanza e la guardia in pieno agosto gli dice: ma ci tuffa, fa fino a settembre. Adesso la sintetizzo, ma sembra quasi la scena di Totò dove la libertà, no? E lui a un certo punto esce dopo anni di prigione, si va a costituire, non lo vogliono fare, no, vuole rientrare in carcere e non lo vogliono far rientrare. E a me è successa una cosa analoga quando scappai da San Patrignano, la comunità dei tossicodipendenti. Il giudice mi rifece l'ordine di carcerazione, al che io decisi, per non stare nascosto per strada, decisi di costituirmi, ed era pieno agosto, andai al carcere di Gragnano all'epoca, era 13 agosto, un caldo ovviamente che puoi immaginare, arrivo là fuori, non avevo nessuna carta che testimoniava la mia latitanza, ero solo io stesso che dicevo: sono un latitante, fatemi entrare. E quello disse: ma ce l'hai una carta? Quella carta, scusa, chiama il terminale, vedi che da notivare, questa è la mia, la tessera, ti posso dare il documento? No, ma io voglio una carta che sia da latitante. La carta da latitante è bella, la carta da latitante, no, la battuta finale, ma che mai ci scrive la Bocconi? No, ma è molto divertente, infatti si è scelto anche una chiave, come dire, ti ripeto, ironica, sarcastica in certi momenti, proprio perché certi racconti spesso erano duri e quindi ci sembrava più logico raccontarli un po' più, senza però tradire quello che è l'essenza di quello che accade, diciamo. Certo. Senti Gaetano, ci dai un riferimento internet sia per l'attività cinematografica che per sapere di più di questo libro? Per l'attività cinematografica è figlidelbronx.it, per il libro è Einaudi, sono loro che chiaramente lo pubblicizzano su internet. Comunque si chiamano Non mi avrete mai, Einaudi stile libro, è il ristampa scritto da Gaetano Riva e Guido Lombardi. Non finisce qui perché andremo avanti. E noi vi seguiremo a questo punto. Gaetano, io ti abbraccio, è sempre un piacere, a risentirci presto. Grazie a voi. Buona ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Gaetano Di Vaio, regista e produttore, e in questo caso coautore del libro Non mi avrete mai, che lo vede protagonista. Ben ritrovato Stefano Finesi, ci sei? Sì, certo, buonasera a tutti. Quest'oggi come rappresentante dell'associazione culturale La Farfalla sul Mirino per presentarci la terza edizione di A qualcuno piace classico, appunti di storia del cinema, all'interno di Palazzo delle Esposizioni qui a Roma, a partire dal 29 ottobre. Da martedì 29, sì. Fino, e poi continuerà fino al 3 giugno. Fino al 3 giugno del 2014, tanti appuntamenti. Allora, parlaci un po', illustraci un po' di questa iniziativa, Stefano. Sì, ormai diciamo una formula consolidata che ha anche ottenuto un grande successo nelle passate edizioni. L'appuntamento è sempre il martedì, bisettimanale, un grande classico della storia del cinema, alle 21 a Palazzo dell'Esposizione, a ingresso gratuito. Fondamentale, sì. Ovviamente è una carrellata di classici straordinari, andiamo insomma dalla Hollywood degli anni d'oro fino alla Nouvelle Vague, fino al muto anche, o ad alcuni film di grandi maestri degli anni Ottanta, insomma copriamo anche film italiani, peraltro, per esempio facciamo C'era una volta il West di Leone nella versione integrale restaurata, o Dove la libertà di Rossellini. Insomma, i titoli sono tanti e uno più bello dell'altro. Si parte con Eva contro Eva, che insomma è un film leggendario, con una Bette Davis memorabile, 6 premi Oscar, un film che conosciamo tutti, però ecco, rivisto al cinema, in pellicola, 35 mm in sala, insomma è sempre ti arrivano le emozioni in modo diverso. Sì, ecco. Sì. Ecco, ricordiamolo, insomma, oltre all'ingresso gratuito, le proiezioni saranno in pellicola 35 mm, un'occasione unica. Questa è una cosa a cui noi teniamo molto, perché a parte, diciamo, il cinema a livello industriale anche in Italia ormai sta andando verso le proiezioni in digitale per le prime visioni. Sì, sì, sì. E i cineclub, diciamo i pochi cineclub rimasti, ormai spesso fanno in DVD. Noi, grazie poi alla collaborazione con la Cineteca Nazionale, che è copromotore dell'evento insieme a Palazzo d'Esposizione e l'associazione, diciamo siamo riusciti a pescare in questa miniera d'oro di copie d'epoca in 35 mm, che comunque rimane lo standard migliore per vedere questi film del passato, che sono stati girati e pensati per la pellicola. Sì, e sì, che sì, quindi andrebbero appunto rivisti in pellicola. Ecco. Stefano, mi dicevi appuntamento bisettimanale, quindi quanti sono i titoli in programma? Sono in tutto 15. Sì. Io, se vuoi, così un po' random ti dico, ecco, dopo Eva contro Eva il 12 novembre c'è Il raggio verde di Romer. Ecco, quali, no, più che altro volevo chiederti quali sono stati i criteri di scelta. Beh, guarda, in realtà non c'è un vero e proprio criterio di scelta. Il vero criterio è, come dire, il piacere del cinema, insomma, è veramente la gioia pura di mettere insieme, cioè, dei film grandissimi che hanno segnato la storia del cinema e che comunque ancora oggi sono attualissimi e godibili in sala. Mm-hmm. Ti ripeto, andiamo dalla grande stagione Nouvelle Vague, quindi abbiamo i 400 colpi di Truffaut o Il raggio verde di Romer, dai capolavori del muto c'è Aurora di Murnau, e abbiamo un Bergman maturo dopo La prova. Per i classici di Hollywood c'è Cappella a cilindro, che è il film più famoso della coppia Fred Astaire e Ginger Rogers, c'è Ratto il selvaggio di Coppola, Pari Texas di Wenders, Un anno con 13 lune di Fassbinder, insomma il programma. Ah, c'è anche un Tarkovsky, peraltro, in faccia di Ivan, che è il primo lungometraggio, visto che siamo, tanto sono uno più bello dell'altro, insomma, sì. Però sì, diciamo, il criterio è anche legato alle disponibilità delle copie, ovviamente, okay, perché non è sempre più difficile, sì, trovare questi film. Sì, sì. Stefano, pellicole in buone condizioni. Esatto. E poi c'è il criterio del piacere. Il criterio del piacere. Senti, Stefano, a questo punto anche due parole sulla Farfalla sul Mirino, l'associazione culturale di cui fai parte. Eh sì, la Farfalla sul Mirino ormai che appunto compierà nel 2014 ben 13 anni, e quindi sono 13 anni che organizziamo eventi, siamo partiti, forse insomma molti cinefili romani lo ricordano, la Cinema dei Piccoli, dove facciamo l'appuntamento del lunedì, e poi piano piano insomma abbiamo lavorato spesso al Trevi, e adesso c'è questa collaborazione sempre più intensa con Palazzo delle Esposizioni. Ci lasci... Noi, ecco, la bandiera del, insomma, del 35 mm e delle proiezioni, ecco, rigorosamente in sala, in pellicola, è una specie di piccola battaglia culturale che portiamo avanti da tanto tempo. Siamo felici perché il pubblico c'è, insomma, e risponde, e questo per noi è una questione di pura militanza, quindi la risposta del pubblico è tutto. Bene. Tutto questo. Ci lasci dei riferimenti sia per quanto riguarda la Farfalla sul Mirino che la programmazione del Di a qualcuno piace classico? Sì, guarda, c'è il sito di Palazzo delle Esposizioni, che è la cosa insomma più semplice, dove sono tutte le schede dei film, gli orari eccetera, che è www.palazzoesposizioni.it. Però ecco, potete anche seguirci su, per esempio su Facebook, sia su Palazzo che sulla la pagina Facebook della Farfalla sul Mirino. Stefano, io ti abbraccio, a risentirci nel corso Grazie della stagione. Grazie Federico, ti aspettiamo anche a te, mi raccomando. Bene, bene, ok. T'abbraccio. Ciao. Stefano Finesi dell'Associazione Culturale La Farfalla sul Mirino per la terza edizione di A qualcuno piace classico, appunti di storia del cinema a Palazzo delle Esposizioni qui a Roma a partire dal 29 ottobre 2013 fino al 3 giugno del 2014. Visionari su Radio Onda Rossa ogni giovedì dalle 14 alle 15. Per contattarci l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Bam! bene, in collegamento con Nicola Angrisano, un regista che abbiamo sentito in più occasioni e per sotto diverse vesti, perché si tratta di un'identità collettiva, giusto Nicola? Certo, siamo in tanti. Allora, un ciao a tutti, prima cosa. Esatto. Allora, Nicola Angrisano, un regista collettivo, per parlare quest'oggi, oltre al fatto che lo abbiamo contattato in diverse occasioni per vari documentari che ha fatto uscire, questa volta su un progetto che si chiama Stalking Asilo, giusto Nicola? Esattamente. Di cosa si tratta? Allora, si tratta di una nuova sperimentazione, una nuova fase di Insu TV. Ricordo che Nicola Angrisano è il nome collettivo legato a questa esperienza ormai decennale, che parte nel 2003 con una televisione pirata a Napoli, che ha avuto varie metamorfosi, prima appunto televisione pirata, poi col passaggio al digitale abbiamo lavorato molto nell'ambito documentale, dei documentari, facendo documentari sulla questione dei rifiuti, sulla questione dell'agricoltura dal basso e via di seguito, e diciamo in questa evoluzione siamo riapprodati in qualche modo all'esperienza televisiva, riragionandola in qualche modo in formato web, per cui stiamo mettendo su ormai da un paio d'anni questa esperienza di questo talk show che si chiama appunto Stalking Asilo. Come è strutturato? Allora, in realtà il format è in continuo divenire, come tutto ciò che facciamo, essendo una mente fatta da molte menti, di volta in volta abbiamo correzioni, non c'è nessun professionista tra di noi, per cui di volta in volta ci riguardiamo la puntata, così l'abbiamo fatta, e cerchiamo di trovare di volta in volta dei nuovi aggiustamenti. Sì. Quest'ultima versione, diciamo rispetto alle precedenti, ha fatto un passaggio importantissimo, che è quello del passaggio dallo streaming live al lavoro in differita. Nel senso che fino adesso noi facevamo questa trasmissione che, chiaramente, considerando che appunto non siamo professionisti, siamo quanti militanti, questo lavoro viene fatto appunto per approfondire le tematiche in qualche modo di sensibile al movimento e a chi lavora sul territorio nelle varie città, soprattutto nella nostra, perché chiaramente noi lavoriamo sostanzialmente su Napoli, e prima facciamo questo grande sforzo di fare tutto quanto in diretta. Sì. Grande stress, grande gioia, vari esperimenti, però mettere su una puntata per noi richiede moltissimo lavoro, un lavoro di 3 mesi in qualche modo. Sì, sì, sì, sì. Per cui abbiamo deciso da questa puntata di prenderla un po' più slow e in una giornata abbiamo registrato sostanzialmente 3 puntate. Ok, ecco, io quando ti chiedevo com'è strutturato, perché è diviso in puntate, volevo sapere che durata hanno, che cadenza hanno, insomma qualcosa di più specifico. Allora, prima cosa, chi vuole vedere questa l'ultima, anzi tutte le puntate di Stalking Asilo, può andare sul sito di insutv.it /stalking asilo per l'appunto, e potrà vedere un pochino tutta quanta l'evoluzione di questa di questo esperimento. Questa puntata noi abbiamo fatto, questa volta abbiamo registrato queste 3 puntate. La prima è andata in onda il 1° ottobre, la prossima sarà in onda il 1° dicembre. Ok. Questa cosa ci permette di poter costruire una nuova puntata entro 3 mesi e essere comunque, diciamo, avere perlomeno una cadenza, perché spesso questa cosa poi piglia dei grandi delay. Sì. Sostanzialmente per noi è sì, molto, molto importante riuscire di volta in volta ad affrontare le tematiche che riguardano, diciamo, il lavoro che i movimenti sul territorio fanno, quindi per dargli forza, ragionamenti, sì, supporto e via di seguito. Però per noi è molto importante proprio il progetto di per sé. Infatti abbiamo provato l'anno scorso, e però è stata una cosa un po' abortita, di fare una puntata al Cinema Palazzo, là a Roma. Sì. La volevamo fare per l'anniversario del Cinema Palazzo, ma giustamente i ragazzi erano già presi dai turchi, dalle mille cose che avevano organizzato per quella giornata, si resero conto che fare una trasmissione live non era una passeggiata e quindi dissero che forse è il caso di concentrarsi sulle tante altre cose che già avevano, e questa cosa è stata rinviata al futuro. Okay. Noi per la prossima puntata abbiamo deciso di lavorare per la puntata, ma soprattutto di fare un grande making off, perché ci interesserebbe molto che la gente si renda conto di quanto è bello e di quanto è importante un'esperienza del genere, perché sarebbe bello poter avere delle produzioni diffuse sul territorio nazionale. Cioè, noi facciamo il nostro stalking a Napoli sulle tematiche locali, qualcuno fa un'altra cosa che si chiama in un altro modo ma che comunque più o meno possa funzionare in maniera similare su altre cose, e poi da un grande meshing potremmo ottenere una struttura, una trasmissione che può avere un grosso respiro e può essere ben distribuita. Quanto dura una puntata e c'è una conduzione? Allora, quest'ultima versione dura un'ora a puntata. Okay. Noi siamo arrivati a fare puntate anche di 4 ore. Siamo partiti con puntatone di 4 ore perché ogni puntata era divisa in varie tematiche. Sì. Adesso abbiamo fatto in modo che ogni puntata è una tematica e quindi ci giochiamo la divisione della trasmissione. E allora, nell'ultima versione abbiamo, diciamo, un giornalista che fa le interviste in studio, che in qualche modo assume anche il compito di presentatore, nel senso che più che altro è quello che si occupa di fare di legare i vari momenti, di lanciare il gruppo che suona live, di fare di lanciare tutti quanti i video sul tema incastrati un pochino con le interviste, insomma fa non solo le interviste ma costruisce anche la tela. Sì. Nelle altre puntate invece abbiamo avuto proprio un presentatore, a volte l'abbiamo avuto uno molto estrionico, l'ultima era abbastanza cabaret come stile, insomma stiamo appunto, come dicevo prima, ogni format è sempre diverso, è sempre nuovo, perché cerchiamo di trovare una sintesi adeguata. Certo, però insomma da quello che mi dicevi, visto che siamo comunque in una trasmissione di cinema, c'è anche un approccio documentario nelle... Sicuramente, infatti in realtà è questo il tempo grosso che ci viene richiesto tra una puntata e l'altra, nel senso, sì, che noi ad esempio questa puntata sul carcere e chiaramente abbiamo fatto molte interviste, siamo andati al carcere, abbiamo studiato, cioè abbiamo cercato di cerchiamo sempre di arricchire la trasmissione con tante pillole di 8-10 minuti che sono degli approfondimenti tematici che poi vengono discussi con gli ospiti in studio. Sì. Questa cosa anche perché noi abbiamo sempre ragionato molto anche un po' nell'ottica della macelleria, nel senso che poi dopo una trasmissione la trasmissione può essere smontata e avere tante piccole pillole comunque estremamente interessanti, quindi autonarrative, che chiaramente nel mondo della rete sono molto più digeribili, sì, della monocosa da un'ora che magari, certo, in pochi riescono ad affrontare. Invece, sì, in questo, sì, modo, sì, tanti piccoli virus si distribuiscono lungo la rete e che magari poi portano alla voglia di approfondire, sì, sì, sì, sì, sì, e quindi a guardarsi l'intera puntata. Nicola, ecco, in base a quello che mi dici, c'è la possibilità di contribuire in qualche modo al lavoro della redazione? La redazione di volta in volta, quando affronta un tema, diciamo in qualche modo si rigenera. Esistono chiaramente i componenti standard di Insu TV, voglio precisare che queste trasmissioni sono fatte in collaborazione con l'Asilo Occupato, okay, che è una struttura che sta a Napoli, diciamo nata sull'onda di Cinema Palazzo, tutte queste strutture fatte, diciamo, da artisti che, diciamo, negli ultimi 2 anni in Italia sono nate un po' dappertutto. Tra l'altro, quindi, subito dopo questa, cioè, dopo la mia trasmissione di cinema, c'è quella del Teatro Valle Occupato. Esattamente, insomma, sono diciamo, i gemelli di questa esperienza che là a Roma si chiama Teatro Valle, si chiamano Cinema Palazzo, qua a Napoli è appunto l'Asilo Occupato, e noi con loro abbiamo preso un intero piano che già nei mesi abbiamo customizzato, abbiamo già tutti i fili, il mixer, le cose, per cui in qualche modo quando mettiamo sulla puntata siamo costruito una serie di facilities, nel senso attacchi la telecamera, attacchi i cavi, già è tutto più o meno cablato, riusciamo a mettere sulla puntata in maniera abbastanza, okay, sempre più semplice. All'inizio era delirio, cioè si partiva con questo stanzone vuoto, tu devi partire dalla scenografia ai cablaggi, alle luci, alle cose, piano piano questa cosa sta avviando un buon ritmo, uh-huh, grazie anche all'esperienza appunto di persone che fanno teatro, cinema e di seguito che vivono l'asilo, e in qualche modo proprio per questo si chiama stalking asilo, perché siamo noi che andiamo a dare fastidio a quei poveretti dell'asilo e facciamo gli stalker sulla loro vita quotidiana. Senti Nicola, a questo punto diamo nuovamente i riferimenti per chi volesse saperne di più. Allora, il sito di Insu TV è www.insu.tv.it, sì, il sito dedicato a Stalking Asilo è proprio, diciamo, il dominio principale /stalkingasilo. Benissimo, a questo punto ci sentiamo prossimamente per le puntate successive. Assolutamente, magari lanciamo la prossima puntata insieme. Va bene, un abbraccio. Gentilissimo, grazie a tutti. È sempre un piacere. Grande allegria per i liberati del 19. Siamo tutti felicissimi. Bene, bene. Un abbraccio. Queste sono le cose importanti. Ciao. Ciao. Nicola Angrisano, regista collettivo per Insu TV sul progetto Stalking Asilo. Sabrina Benussi, regista del documentario Vedo Rosso, anni 70 tra storia e memoria degli italiani d'Istria. Sabrina, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, grazie dell'invito e buongiorno a tutti. Ti stavo inseguendo da qualche mese, da quando avevo visto in programmazione al Festival di Trieste questo documentario. Ho letto la sinossi, ho detto ne dobbiamo parlare assolutamente. Allora Sabrina, di cosa si tratta? Ecco, il documentario ha avuto una genesi molto lunga. Avevo sempre questo desiderio di raccontare una storia, una pagina di storia, un po', possiamo dire, di e al confine. È molto complessa perché la storia degli italiani di Istria, non tutti gli italiani di Istria, di quelli nati negli anni 60 e sì, vissuti che quando negli anni 70 avevano 6-7 anni, ecco, inizia così la storia. Quindi c'è un filo autobiografico perché io sono nata lì e ho vissuto in quel periodo lì, e quindi racconta l'educazione dei ragazzi e studenti della scuola dell'obbligo. Quindi c'era l'iniziazione ideologica che passava attraverso la formazione dei pionieri, la gioventù socialista e così. E racconta la storia un po' delle persone che sono vissute in quel periodo, però volevo raccontare anche il confine in senso più largo, sì, quello sì, sì, sì, dove si possono riconoscere tutti coloro che nelle varie aree europee sono stati segnati dalla sua mobilità. Perché diciamo così che nella mia famiglia, per esempio, le faccio un esempio, mia nonna, che è una delle voci del documentario, è nata nella stessa casa, è vissuta sempre nella stessa casa, cambiando 4 cittadinanze, parlando solo l'italiano, ecco. Lei diceva così, diceva non serve andare all'estero perché è l'estero che arriva da noi. Ecco, l'Istria, allora rispetto alla rimanente parte d'Italia, cosa caratterizzava questa educazione? Raccontaci un po', noi che stiamo da altre parti. Beh, era una cosa un po', per noi italiani d'Istria, era una cosa un po' schizofrenica, perché andavamo a scuola, eravamo i piccoli pionieri della patria, l'Avenir di Tito, sempre nella scuola italiana, perché ci sono ancora le scuole italiane in Istria, sì. E poi andavamo a letto con Carosello. Poi sì, era una cosa, perché mi piaceva raccontare proprio anche la porosità dell'etere che comunque permetteva ulteriori, cioè avere altri input, diciamo così, no? Sì, sì, sì, sì. Era un modo di vivere un po' schizofrenico, ecco. Sì. Poi avevamo l'educazione, cioè nulla ci deve sorprendere, oppure c'era questa paura del nemico esterno, quindi ci insegnavano a sparare, ci portavano al poligono di tiro e così via, insomma, cose che, insomma, viste da fuori sembrano molto molto strane, insomma, anche a me adesso sinceramente quando lo raccontavo dicevo l'ho fatto anch'io. Quando dovevamo tirare il peso educazione fisica dicevano voi dovete pensare che è una bomba a mano. Ecco. E l'insegnante mi ha detto a un certo punto: se tu lanci la bomba a mano come questo peso, tu essere morta. Perché non ero così brava. Ecco. Senti, ecco, cosa dovevano sapere i giovani pionieri? Dovevamo sempre scrivere, mi ricordo sempre, c'era la poesia Tito, il tema su Tito, e quindi era un incubo perché insomma 4 volte all'anno per 8 anni di elementari e medie era sempre quello il discorso. Mm-hmm. Avevamo materie alle superiori come marxismo, teoria e prassi del socialismo d'autogoverno, insomma, e poi avevamo tutte le altre materie per l'amor del cielo, insomma, io facendo la scuola italiana avevamo subito come seconda lingua il serbo-croato quella volta, che adesso non esiste più come lingua, cambiano molte cose in fretta, e quindi ho imparato molto letteratura quella volta jugoslava, ecco. Quindi sì, ecco. Il documentario è ricco, è stato fatto dall'associazione Fuori Testo con i contributi meravigliosi, fantastici, l'archivio di Telecapodistria, sì, e in collaborazione con la Rai Friuli Venezia Giulia, infatti l'ha mandato anche in onda la Rai regionale, insomma, del Friuli Venezia Giulia. Ecco, che ne è di, visto che immagino che si baserà anche su interviste, sì, a chi, sì, ha vissuto quell'esperienza, ecco, sì, che ne è oggi di quell'esperienza e che carico portano questi giovani che hanno vissuto quei momenti? Guarda, quando perché sono miei coetanei più o meno, quindi, sì, quarantenni, quando dicevo guardate vi devo intervistare, mi dicevano ma come, è già storia. Sì, è stata una cosa, diciamo così, che dopo la, mi sembra di essere come i vecchi che parlo prima e dopo la guerra. Sì, la guerra in Croazia, in Slovenia, nell'ex, quando c'è stato il crollo, sì, dell'ex, sì, Jugoslavia, è come se avessero chiuso una finestra. Io quella finestra l'ho aperta, sì, ovviamente ho sollevato un po' di polvere, perché è piaciuto moltissimo il documentario, non a tutti, perché dicevo delle cose che insomma non a tutti andavano bene, ma io l'ho raccontato con la voce di una bambina, quindi gli anni 70 erano molto difficili sia di qua che di là, insomma, in un certo senso, quindi è un periodo storico molto complesso, e quindi sicuramente non volevo raccontare, cioè non potevo raccontare una storia così complessa in 50 minuti di documentario, voleva, sì, essere uno spunto di riflessione, e sinceramente voleva essere anche un farci conoscere, capito? Sì, perché, sì, sì, sì, quando, cioè io adesso vivo a Trieste, però il fatto che continuano a dire ah ma che bene parla l'italiano lei, cioè, mi fa un po' sorridere. Ecco, volevo chiederti quante persone ha riguardato questa vicenda storica, e poi se c'è un punto di sintesi rispetto a questa dimensione schizofrenica di cui parlavi. Beh, dopo la seconda guerra mondiale sono andata via sui 300-350 mila italiani, sì. Io sono figlia di quelli che sono rimasti giù, sono rimasti giù per le motivazioni più diverse, perché magari dovevano raccogliere il grano, oppure non riuscivano a partire, non sapevano dove andare, oppure alcuni per convinzione ideologica, e io non sono tra quelli che non ha scelto, si è trovata a vivere in quel momento lì. E quindi non volevo dimostrare niente, volevo solo mostrare una realtà diversa nella quale eravamo vissuti, insomma. Sì, sì, sì, sì. Quindi sì, così non ci sono anche delle animazioni molto belle. La musica è di Carlo Boccadoro, sì, ed è veramente squisita, insomma, lega bene tutti questi contributi, perché tra animazioni, interviste, materiale di repertorio, nel materiale di repertorio siamo noi che facevamo il saggio ginnico per Tito, sì, vestiti con improbabili vestitini rossi, mi sono anche riconosciuta vergognandomi tantissimo, ma noi, ecco, ci vergognavamo più, non eravamo molto consapevoli, ma sì, ci vergognavamo più perché dovevamo portare il vestitino e fare la sfilata per la città, e come adolescente uno si vergogna, insomma. Senti, dimmi. No, dimmi tu. Sabrina, volevo sapere, ecco, se, il tuo documentario, per saperne di più in rete, c'è un riferimento, un sito o qualcosa del genere? Sì, il sito dell'associazione in costruzione, quindi se mettete solo Vedo Rosso c'è di tutto di più. Adesso lo presento a Zagabria, sì, all'Istituto di Cultura Italiana, sì, ha vinto al Trieste Film Festival l'anno scorso Zone di Cinema, quindi è stato veramente un successone inaspettato, e l'ho presentato anche a Venezia, quindi sto cercando di presentarlo in giro il più possibile, insomma, e ho molte richieste. Bene, a questo punto speriamo di risentirci presto. Va bene, grazie mille. Un abbraccio, ciao Sabrina. Grazie, ciao. Sabrina Benussi, regista del documentario Vedo Rosso, anni 70 tra storia e memoria degli italiani d'Istria. Bene, dovevamo contattare Lorenzo Gangarossa di Indiana Production sul progetto Italy in a Day, che vede coinvolto Gabriele Salvatores il 26 ottobre, una giornata in cui qualsiasi italiano o italiana poteva documentare un pezzo di sua giornata e renderlo parte di un progetto collettivo. A questo punto magari proviamo la settimana prossima a sapere cosa ne è stato. Nel frattempo ci salutiamo, perché ci diamo appuntamento a giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15. I riferimenti per quanto riguarda il sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni visionari, e poi c'è anche la pagina Facebook di Visionari, l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Buon proseguimento.